Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Lo dico al Presidente del Consiglio, lo dico agli altri. Se si vuole lavorare, rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci tutti insieme a dare una mano a questo Paese che vive una fase di profonda turbolenza. Se qualcuno vuole staccare la spina, lo faccia, prendendosene la responsabilità e sapendo che noi non accetteremo mai né ricatti né minacce. A muso duro ormai lo scontro, care ascoltatrici, cari ascoltatori, tra il Presidente del Consiglio Conte, dall'altra parte con lui, insomma, Movimento 5 Stelle PD, e dall'altra Renzi con la sua Italia Viva, che comunque è una delle quattro forze che sostengono questo governo, ma che cominciano, insomma, a far respirare un po' aria di crisi, nel senso che sempre sul tema della prescrizione c'è una fortissima tensione all'interno delle forze della maggioranza, diciamo, da una parte Renzi e dall'altra tutto il resto della maggioranza. Il Presidente del Consiglio Conte in particolare, col quale oggi c'è stato un forte botta e risposta. Quindi c'è davvero il rischio di una crisi, di andare a elezioni anticipate? Lo scopriremo naturalmente qui a Effetto Notte con l'approfondimento della politica e con le varie dichiarazioni che sono susseguite oggi e il Consiglio dei Ministri che è in corso, e vedremo poi come procede. Consiglio dei Ministri, tra l'altro, che sarà disertato dalle ministre, dai componenti, insomma, di Italia Viva. Poi ci occuperemo naturalmente, come sempre, da settimane di coronavirus. Ci sarà il professore Ippolito dello Spallanzani di Roma, che sapete è l'ospedale dove sono ricoverati... vengono ricoverate le persone infettate, contagiate, o anche le persone che hanno dei sintomi sospetti. Poi ci sarà lo sport, parleremo anche di una novità importante che riguarda finalmente il ponte di Genova. Per i vostri commenti, lo sapete ormai, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure gli sms e WhatsApp li potete inviare al 349-238-6666 per sms e WhatsApp, 349-238-6666. Durante il giorno c'è il Twitter Roby con la Y in netta bassa Giordano per alcune anticipazioni fresche, oppure c'è durante la diretta, l'effetto notte della diretta del programma. Direi di allacciare le cinture e di partire. Rischio crisi sulla prescrizione, duro botta e risposta tra il Presidente del Consiglio Conte e il leader di Italia Viva, Renzi. I suoi ministri non andranno al Consiglio dei Ministri. Coronavirus Covid-19, mentre in Cina si è registrato un boom di contagi e morti per il cambiamento dei parametri di conteggio dei malati, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rassicura, dice, nessun cambiamento nella diffusione del virus, virus che avrà un impatto sulla nostra economia, secondo il Ministero, per almeno 2-3 mesi. Mille proroghe, medici in corsia sino a 70 anni. Lo studente arrestato al Cairo, Zaki, vede i genitori, sarà processato il 15 febbraio e il ragazzo trasferito in un'altra stazione di polizia. Genova issata la prima maxi trave del nuovo ponte. Sport, mondiale di biathlon, esordio con medaglia d'argento per l'Italia nella staffetta mista. Calcio, per la Coppa Italia maschile in campo Milan-Juventus. Partiamo quindi dalla politica, con le forti tensioni nella maggioranza di governo, tanto da parlare appunto di rischio di crisi. Italia Viva vota ancora una volta con l'opposizione un emendamento sulle intercettazioni al decreto mille proroghe e le ministre di Italia Viva annunciano che non parteciperanno al Consiglio dei Ministri, che dovrebbe essere ormai in corso, iniziato proprio in questi istanti. Dice Conte, irritato, commenta nei confronti di Renzi: non accetto ricatti, l'assenza nel Consiglio dei Ministri sarebbe ingiustificata. Italia Viva deve un chiarimento agli italiani per il suo atteggiamento paradossale e surreale, dice Conte, che ci si aspetterebbe da un partito di opposizione che fa un'opposizione aggressiva e anche un po' maleducata. Un richiamo questo di Conte condiviso dal segretario del PD Zingaretti, che avverte: se finisce il governo finisce la legislatura e si vota. Renzi replica: Italia Viva non va al Consiglio dei Ministri, Conte non è il preside. Ci sarà quindi di che parlare, insomma, a questo proposito. Passiamo agli sviluppi relativi al coronavirus. Le autorità cinesi sbloccano finalmente il rimpatrio da Wuhan del 17enne di grado Nicolò, che ora potrà tornare in Italia con un volo speciale. Ed è boom di contagi in Cina con i nuovi parametri di monitoraggio, ma l'OMS rassicura: nulla è cambiato nel diffondersi dell'epidemia. I casi in Europa sono 44 e da Bruxelles i ministri della salute europea puntano su una strategia comune. Con la prima vittima del coronavirus in Giappone, salgono a 2, insieme al caso delle Filippine, i decessi fuori dalla Cina, dove si registra una brusca impennata di contagi, che si spiega con l'aggiornamento delle regole di conteggio, che ora includono anche i clinicamente diagnosticati. In Europa il numero di casi resta limitato, ma dalla riunione straordinaria sul Covid-19 dei ministri della salute a Bruxelles arriva la spinta a fare fronte comune e a prestare particolare attenzione a tutte le forme di viaggi internazionali. Il ministro della salute Roberto Speranza. È stata una discussione molto positiva, approfondita, c'è la comune valutazione di rafforzare le misure messe in campo finora. L'Italia è in questo momento il paese col più alto livello di salvaguardia, di sorveglianza. Credo che questa sia la linea giusta, dobbiamo continuare su questo terreno. Ed è arrivato finalmente il via libera dalle autorità cinesi al volo speciale organizzato dalla Farnesina, che rimpatrierà da Wuhan Nicolò, lo studente 17enne di grado rimasto bloccato nella città focolaio dell'epidemia. Il giovane rientrerà in Italia sabato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono partiti intanto poco prima delle 14 con un volo di linea per Pechino via Francoforte i 20 turisti cinesi dimessi dopo la quarantena dall'ospedale Spallanzani, e proprio il direttore scientifico dello Spallanzani sarà ospite questa sera di Effetto Notte. A proposito di personale sanitario, medici in servizio fino a 70 anni, lo prevede un emendamento del governo al decreto milleproroghe. Nulla è più stabile del provvisorio. Quel che è ormai un aforisma ben si attaglia alla milleproroghe, decreto legge dal nome significativo, che dovrebbe avere carattere di eccezionalità, ma che in realtà si ripete ogni anno da molti anni e che è diventato il luogo del di tutto di più. Basta vedere alcuni degli emendamenti approvati in un solo giorno: si va dai fondi per stabilizzare i precari di ANPAL Servizi all'emendamento Salva Napoli che viene in soccorso ai conti del comune, dall'ok all'assunzione di operai forestali alla avvio della realizzazione dei 6 lotti mancanti della Tirrenica, dall'aumento dei fondi per screening contro la cecità al rinvio dell'aumento delle accise sui sigari. Spicca la decisione sui medici: potranno rimanere in servizio anche superati i 40 anni di attività, ma entro i 70 di età, e i medici specializzandi potranno essere inquadrati a tempo determinato e con orario parziale già dal terzo anno di corso. Ora lo strumento degli slittamenti è slittato ancora esso stesso, arriverà più tardi del previsto lunedì prossimo nell'aula della Camera, dove verrà discusso. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo adesso di economia. La Commissione europea ha lasciato invariate le stime di crescita per la zona euro all'1,2%. La crescita prosegue con un passo costante e moderato, afferma Bruxelles. Cattive notizie però per il nostro paese. Italia vagone di coda della crescita europea nelle previsioni economiche invernali della Commissione, che ha rivisto a ribasso le stime per la penisola, portandole a soli 3 decimali in più quest'anno e 6 il prossimo, abbassando di un decimale le previsioni pubblicate a novembre. Non se la passano meglio gli altri due big europei, Francia e Germania, il cui 1,1% di crescita nel 2020 è però quasi 4 volte superiore al nostro. Da Bruxelles un apprezzamento per il reddito di cittadinanza che aiuta i consumi, anche se l'attesa è per una moderata risalita dei redditi e una perdurante elevata propensione al risparmio. La Commissione invita a ridurre l'incertezza politica per sostenere il PIL, e sul debito il commissario agli affari economici Gentiloni dice: credo che il governo italiano sia consapevole della necessità di tenere gradualmente il debito in un percorso di riduzione. Da Bruxelles l'avvertimento sul potenziale impatto del Covid-19. Qualora il coronavirus raggiungesse il suo picco e si esaurisse nel primo trimestre dell'anno, l'impatto sull'economia europea sarà limitato. In caso contrario, le conseguenze potrebbero essere ben diverse. Nel pomeriggio la prima reazione dal Ministero delle Finanze, che pur riconoscendo i dati deludenti dell'ultimo trimestre 2019, invita ad aspettare quelli sull'attività dei servizi e sulla produzione industriale per procedere a una valutazione equilibrata della nostra situazione economica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizie che riguardano lo studente arrestato al Cairo. Vi ricordate, ieri abbiamo avuto il prorettore dell'Università di Bologna, dove Zaki studia con un master, un Erasmus molto particolare, con studi specializzati sul mondo femminile, sulle donne e studi di genere. Si apre uno spiraglio di luce per Patrick George Zaki, appunto lo studente dell'Università di Bologna, arrestato e detenuto al rientro in Egitto venerdì scorso, era lì per una breve vacanza nel suo paese. Il tribunale di Mansura ha fissato fissato a sabato 15 febbraio un'udienza di riesame in cui si deciderà sul provvedimento di custodia cautelare emesso contro Zaki sabato scorso. In caso positivo il giovane sarà libero. Non solo, Patrick è stato trasferito poco lontano da Monsura a Talca in un'altra struttura detentiva e ha potuto vedere, seppur per pochissimo, la famiglia. Pare che sia provato, ma che sta per fortuna bene. All'estero, Stati Uniti 2020, la campagna per le presidenziali 2020, il primo attacco all'omosessualità dichiarata di Pete Buttigieg, candidato tra i favoriti nella corsa alle primarie democratiche per la Casa Bianca, arriva dal conduttore radiofonico conservatore Rush Limbaugh, decorato da Trump con la medaglia della libertà, la più alta onorificenza civile americana. I democratici, ha detto, guardano Major Pete, cioè Pete appunto il candidato, e si interrogano su come apparirà nei dibattiti. Un gay di 37 anni dice che bacia suo marito sul palco vicino a Mr. Man Donald Trump. L'America non è ancora pronta a eleggere un gay, ha aggiunto il conduttore, sollevando polemiche anche sui social. Di nuovo in Italia con la cronaca, condannati in appello a Firenze a un anno e un mese di reclusione, pena sospesa, l'ex presidente di Banca Etruria Giuseppe Fornasari e l'ex direttore generale Luca Bronchi nel processo di secondo grado che li vedeva imputati con l'accusa di ostacolo alla vigilanza. Assolto invece il dirigente dell'Istituto di Credito Davide Canestri, in primo grado i tre erano stati assolti ad Arezzo. Fornasari e Bronchi sono stati anche condannati in solido a risarcire Banca Italia, parte civile nel procedimento, stabilita una provvisionale di 327.000 euro. Adesso torniamo sulla vicenda del treno deragliato. Un difetto allo scambio, oltre all'errore umano, sarebbe la causa dell'incidente sul treno Frecciarossa di una settimana fa. Lo hanno rivelato le perizie realizzate dalla Procura di Lodi. Intanto Rete Ferroviaria, dopo il dissequestro dell'area, ha cominciato a lavorare per ripristinare la linea. A una settimana dal deragliamento del Frecciarossa sulla Milano-Piacenza con la morte dei due macchinisti, spunta l'ipotesi di un pezzo difettoso nello scambio. A farlo sapere è stato il direttore dell'Agenzia Sicurezza Ferroviaria, Marco D'Onofrio, in audizione al Senato. È pervenuta una comunicazione della Procura, sembra che ci sia un difetto interno all'attuatore, al dispositivo che si è andato a sostituire. Lo scambio sembrava a posto e invece di fatto era chiuso. Il pezzo difettoso, tuttavia, aggiunge D'Onofrio, non giustifica completamente tutto, nel senso che nell'andare a rilasciare il deviatoio, forse anche lì qualcosa non ha funzionato. Un errore lo avrebbero cioè commesso anche i 5 tecnici RFI indagati. Hanno pensato che il problema allo scambio fosse solo elettronico, di comunicazione, e hanno staccato la corrente, mandando manualmente il segnale di ok al sistema. Nel frattempo RFI, dopo il dissequestro dell'area, ha cominciato a rimuovere cavi elettrici e vagoni. A breve ci sarà una stima dei tempi di riattivazione della linea. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso parliamo di Genova. È stata issata la prima maxitrave del nuovo ponte, poi avremo modo di parlarne. Questa è una buona notizia, vedremo anche quale sarà il cronoprogramma. Invece andiamo alla vicenda di Ocean Conad, chiesta la cassa integrazione per 5.300 lavoratori. Doccia fredda per i sindacati nel passaggio degli ipermercati Auchan a Conad. Dal gruppo Margherita Distribuzione, azienda di Conad che ha acquisito in Italia e in Sardegna i negozi Auchan, è arrivata infatti la richiesta di cassa integrazione per il 60% della forza lavoro, ovvero oltre 5.300 dipendenti su un totale nazionale di più di 8.800. Di questi, ben 435 dipendenti, su 725 in tutto, lavorano in 4 ipermercati in Sardegna. La comunicazione è stata inviata dal gruppo Margherita Distribuzione ai sindacati e al Ministero del Lavoro. Segnali preoccupanti, speriamo solo si tratti di un passaggio per il rilancio. Non vorremmo che la cassa integrazione prevista per tutto il 2020 fosse l'anticamera dei licenziamenti, commentano dai tre principali sindacati CGL, CISL e UIL. E dalla Sardegna Cristiano Ardau della UILTUX regionale ribadisce: è l'ennesimo colpo di scena di Conad su un'acquisizione nata male e che sta finendo peggio. Domani a Roma intanto è in programma anche un incontro per la gestione di 817 esuberi dichiarati nella sede centrale di Milano. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per chiudere lo sport, allora partiamo dal biathlon. Esordio con medaglia per l'Italia ai mondiali di biathlon di Anterselva. Nella gara inaugurale la staffetta mista, Lisa Vitozzi, Dorotea Wierer, Lucas Hofer e Dominique Windisch hanno vinto la medaglia d'argento. Medaglia d'oro alla Norvegia, mentre la Repubblica Ceca ha chiuso al terzo posto. Come invece avrà esordito la partita semifinale di Coppa Italia maschile Milan-Juventus? Lo chiediamo al nostro Dario Ricci in diretta da San Siro. Ciao Dario! Buonasera, 28esimo di gioco, ancora 0-0 tra Milan e Juventus, ma c'è il Milan nell'area di rigore bianconera, la palla arriva a Rebic, la conclusione di destro parata da Buffon, un Milan decisamente più pimpante in questo primo terzo di gara, che ha creato già qualche apprensione alla difesa bianconera, in particolare al quarto con un tiro centrale di Rebic respinto da Buffon che poi si è superato al 22esimo su un destro dal limite dell'area di Calabria servito da Kessié, bravissimo il portiere bianconero con una mano a salvare in calcio d'angolo. Juventus che controlla, cerca di proporsi in avanti sfruttando una mediana inedita con Pjanic e Ramsey nel cuore del centrocampo, ma che finora ha prodotto poco malgrado qualche spunto, qualche invenzione di Dybala, volitivo ma finora inconcludente Cristiano Ronaldo, più positivo dall'altra parte Ibrahimovic. 29esimo di gioco, 0-0 ancora a San Siro tra Milan e Juventus. Grazie Dario Ricci, poi ci aggiornerà più tardi sempre dallo stadio di San Siro. Ora dobbiamo dare spazio agli aggiornamenti per chi sta viaggiando e poi cominciamo invece a scendere nel cuore degli argomenti, ad approfondire i temi in primissimo piano, a cominciare dalla politica, poi c'è sempre gli aggiornamenti sul coronavirus con le notizie di oggi. 349-238-6666, ricordo il numero cui inviare commenti via sms e whatsapp, oppure li scrivete comodamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, come per esempio ha scritto Fausto che dice: dispiace ma non è un governo stabile e così si crea instabilità ogni giorno, a proposito delle tensioni della maggioranza di cui parleremo tra poco. Alessandro dice: credo che Renzi stia provando a fare cadere il governo sperando nell'ennesimo governo di scopo in cui trovare un posto, spero invece che fallisca il suo progetto e che si vada a elezioni, ne parleremo a breve. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre, lo sapete, ricchissimi di aggiornamenti, informazioni, di notizie date in diretta. Appunto poco fa vi ho detto che appena è iniziato il Consiglio dei Ministri, che è stato confermato che i ministri di Italia Viva non sono presenti, con tutta l'irritazione provocata, suscitata al Presidente del Consiglio Conte, e adesso vedo che il CDM approva la legge olimpica, ovvero il Consiglio dei Ministri ha appena approvato il decreto Olimpiadi di Milano Cortina e Finals, ATP Finals di Torino, lo prende l'ANSA in ambienti governativi. Ecco, questo è l'aggiornamento. Roberto Giordano naturalmente sempre con voi per i vostri commenti, continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per voi giorno e notte, oppure sms e whatsapp da inviare al 349-238-6666. C'è un ascoltatore che dice: viva la radio, un'ondata, dice, di saluti da Sasso Marconi, e ci ricorda che oggi è la giornata mondiale della radio, che per fortuna è gode di ottima salute. Io un po' meno, e naturalmente ecco, domani potrei prendermi in effetti una pausa. Allora, direi di cominciare subito con la politica. Abbiamo un impegno gravoso. La produzione industriale ha segnalato un calo. Noi dobbiamo lavorare in quella direzione. Ecco, per lavorare in quella direzione il clima non può essere questo. E in effetti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, archiviato per il momento il caso Grigoretti, di cui abbiamo parlato ieri col voto al Senato che ha detto sì al processo a Salvini, anche se adesso dovranno decidere i magistrati. E tra l'altro la cosa particolare è che è stata la prima volta che un ministro è stata data l'autorizzazione a processarlo. In effetti, dicevo, il clima nella maggioranza di governo è piuttosto pesantuccia, e su questo saluto la nostra Betta Fiorito in diretta dai Palazzi Romani. Cara Betta. Buonasera, buonasera radioascoltatori. L'oggetto del contendere sembrerebbe essere sempre, almeno sembrerebbe essere, il tema della prescrizione, con un forte, duro botta e risposta oggi a distanza tra il Presidente del Consiglio Conte e in particolare Renzi, leader di Italia Viva. Al quale aveva detto, le sue ministre avevano detto che non avrebbero partecipato al Consiglio dei Ministri. Conte non l'ha presa per nulla bene. Sentiamo un passaggio di Conte. Non sedersi al tavolo istituzionale quando si ha un incarico e quindi una responsabilità di ministro, non venire alla sede dove si discute di tutto, che è il Consiglio dei Ministri, non sarebbe un fatto che da trascurare, quindi la riterrei un'assenza ingiustificata. E Renzi come risponde a questa assenza ingiustificata? Noi stasera non andremo al Consiglio dei Ministri perché il ministro della Giustizia Bonafede ha detto che stasera ci sarà al voto il lodo Conte bis, che è un accordo, un pasticcio della Azzeccagarbugli che non sta in piedi, che probabilmente non hanno neanche letto, e che è un pasticcio che è incostituzionale almeno quanto la legge spazzacorrotti che ieri la Corte Costituzionale ha bocciato a buona fede. E il Presidente del Consiglio non può dire che questa è un'assenza ingiustificata, perché assenza ingiustificata la dice il Presidente di un collegio, non lo dice il Presidente del Consiglio. E siccome Conte dice non è il preside, non lo può dire, però sentiamo che cosa dice Conte. Dice però Italia Viva deve delle spiegazioni. Credo che Italia Viva debba darci un chiarimento, ma non lo deve dare questo chiarimento al sottoscritto che qui parla, il Presidente del Consiglio, lo deve dare a tutti gli italiani, perché noi siamo andati in Parlamento, c'erano anche loro, se anche sedevano diciamo in un'altra sfera dell'emiciclo, hanno dato la fiducia perché hanno chiesto sulla base di un programma di governo che si lavorasse. Beta, quindi diciamo abbiamo un po' descritto così attraverso questi passaggi il clima che si respira, e poi la stessa assenza delle ministre che dovevano esserci di Italia Viva al Consiglio dei Ministri, insomma, non fa presagire bene, ma è piuttosto irrituale, tra l'altro. Beta, è normale che a volte una delle forze che sostengono la maggioranza di governo non sia presente? No, è piuttosto irrituale, Roberta, ed è uno strappo istituzionale, però non si capisce a questo punto cosa voglia fare Italia Viva. Cioè, questo governo, ora, in questo caso ha ragione il premier Giuseppe Conte, questo governo è nato perché Renzi l'ha voluto. È stato il promotore maggiore insieme a Grillo, no? Beh, diciamo così, Renzi convinse Zingaretti, lui Renzi era ancora nel PD, convinse il suo segretario che era recalcitrante, Zingaretti voleva andare a voto, sì, ricordiamo. Cioè, di fare questo governo. Poi, poco dopo fatto il governo, immediatamente Renzi ha deciso che fondava un nuovo partito. Questo nuovo partito non è che sta avendo tutto questo successo sui sondaggi. Infatti ti dico, Betta, c'è questo ascoltatore... Scusa, Marco dice, Renzi rappresenta una forza politica al 4,5% e nel governo ha un peso del 4,7% sul totale dei ministri. Praticamente dice un chihuahua che abbaia due Rottweiler. Vabbè, ha fatto questa metafora, diciamo, canina. Prego, scusa, Betta. No, ma allora, dunque, qui ci sono da dire due cose. Allora, lui fa un governo, diciamo così, persuadendo, non costringendo, il segretario del suo partito di allora a fare questo governo. Il giorno dopo lui si stacca, forma gruppi autonomi e forma un partito suo che si chiama Italia Viva, con il sogno che è da sempre, dopo che è crollata la DC, di quello che, di formare un centro. Un grande centro. In realtà questo sogno, io mi ricordo che ce l'aveva Cossiga quando fondò l'UDR, in quell'UDR si staccò Mastella che fondò l'UDEUR. Cioè, e sono sempre state briciole, il sogno del centro, anche Mario Monti, no? L'11% che fu il massimo raggiunto. Cioè, sono tutti sogni che in realtà non competono con la realtà, perché a parte tutto questo, a parte l'unica forza che ha sparigliato per un certo momento e adesso non spariglia più, cioè le carte, è il Movimento 5 Stelle, che è riuscito non di destra non di sinistra a arrivare addirittura al 32%, ma già in crollo totale. E su questo Zingaretti ha detto chiaramente che alla fine si riproporranno due schieramenti, centrodestra e centrosinistra. Quindi dove va Renzi senza Zingaretti? Ricordiamo anche che oggi ho visto una splendida direzione del PD dove c'era Zingaretti e accanto a lui c'era Andrea Marcucci, che è stato un renziano fino all'altro ieri, di ferro, e era capogruppo al Senato, ma lui è stato eletto perché era renziano, cioè, e non ci ha pensato minimamente ad andare in questo piccolo partito di centro che cerca di ammiccare a Forza Italia. Non si capisce che vuol fare. Che vuol fare? Se non ce lo dici tu, Betta, gliel'avrei chiesto a Renzi. No, non si capisce, io te lo dico. Cioè, secondo me, se va alla crisi è un suicidio politico. Lui è fallito come premier. Pensa, io a un certo punto, quando vedo Maria Elena Boschi, quando vedo quelli di Italia Viva, dico, ma quanti ce ne saranno? Cioè, noi cronisti parlamentari un po' di vecchia, di lungo corso, come si dice. Un po' vecchiarelli, diciamo pure, sì. Io vedo tutti quei 5 Stelle e dico, quanti ce ne saranno la prossima legislatura? e di Italia Viva ho la risposta esatta: nessuno. Beh, dove vanno? Vedo e prevedo, Fabetta, però sentiamo questo passaggio di Renzi che dice: se Conte vuole un'altra maggioranza lo aiutiamo. Sentiamo. Tu puoi cambiare maggioranza, caro Presidente del Consiglio, lo hai già fatto, del resto sai come si fa a cambiare maggioranza. Quello che non pensiamo tu possa dire è che noi siamo opposizione maleducata, perché se noi siamo opposizione voi non avete la maggioranza. E allora, questo lo dico nell'interesse del Paese, non mi sembra un'idea brillante. Se voi volete fare un'altra maggioranza, non ci metteremo di traverso, vi daremo una mano, faremo il tifo per voi, ma non saremo mai tra quelli che per tenersi uno sgabello rinunciano a una dignità e a un principio. Sentiamo Conte che cosa risponde a questa proposta di altra maggioranza. Ma secondo voi un Presidente del Consiglio che va in Parlamento e fa di tutto perché la politica abbia sempre maggiore credibilità, perché i cittadini possano dare fiducia alle istituzioni, riporre fiducia alle istituzioni, che fa? Sta in una maggioranza e nel frattempo si va a cercare altre maggioranze in questo modo? Signori, non sono io. Allora, c'è Pietro che scrive: ha perfettamente ragione Renzi, non si può pretendere che si dica sempre sì, anche se sono decisioni errate, non capisco cosa significano tutte queste chiacchiere, eccetera, eccetera, fate anche voi intorno a questa questione, perché effettivamente la posizione di Renzi, per carità, se uno dice io sono inamovibile sulla questione della prescrizione, che sappiamo per adesso essere appunto il nodo, ma sarà davvero l'unica questione, Betta, questa della prescrizione, che Conte aveva raggiunto questa mediazione dicendo va bene, la fermiamo questa data di scadenza, lo scorrere della data di scadenza al secondo grado di giudizio se c'è una condanna. Però Renzi dice a noi non va bene, va bene il lodo Annibali, che è una parlamentare di Italia Viva, che è quello di rimandare al prossimo anno questa cosa, questa questione della prescrizione, così nel frattempo si accelera, si cerca di riformare il processo penale, no? È soltanto questo, cioè una volta superato questo scoglio, se mai si superasse, si supererà, tra l'altro, domanda. No, allora qui c'è Italia Viva che dal giorno in cui è nata continua appunto ad abbaiare come un chihuahua. Poi che sul merito Renzi possa avere ragione sul fatto che comunque il lodo Conte sullo stop alla prescrizione se condannati in primo grado abbia degli aspetti di incostituzionalità è sotto gli occhi di tutti, nel senso che bisogna dire le cose come stanno. Se la legge dice che tu sei innocente fino al terzo grado di giudizio, sei innocente fino al terzo grado di giudizio. Inoltre, la prescrizione esiste perché i processi non vengono fatti, perché la magistratura è oberata dall'obbligatorietà dell'azione penale. Quindi, chiaramente, questo non si può riversare sull'imputato. Questo è l'aspetto anche importante di Renzi, però il problema è un altro: se tu fai un governo a settembre e siamo a febbraio con i 5 Stelle e sai che ci sono tutte queste cose, non lo fai il governo. Scusa Betta, ma per caso, Renzi, tu nel merito puoi avere anche ragione, caro Matteo Renzi, ma adesso non apri una crisi, perché tu questa cosa l'hai accettata quando hai fatto il governo con i 5 Stelle 5 mesi fa. Sentiamo Renzi che dice: chi vuole staccare la spina lo faccia. Lo dico al Presidente del Consiglio, lo dico agli altri: se si vuole lavorare, rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci tutti insieme a dare una mano a questo Paese che vive una fase di profonda turbolenza. Se qualcuno vuole staccare la spina, lo faccia, prendendosene la responsabilità e sapendo che noi non accetteremo mai né ricatti né minacce. Oh, gli ascoltatori, c'è chi dice facci sognare Matteo, e un'altra che dice invece Renzi un volta gabbana, Renzi ormai è chiaro che sta con Salvini, eccetera eccetera. Conte a sua volta ha ribattuto: noi non accettiamo ricatti. Quindi è veramente un braccio di ferro, un muro contro muro, che però vedremo. Senti, ma c'è per caso anche in qualche modo, tra l'altro Conte oggi, se non sbaglio, ha sentito Mattarella al telefono, è una cosa insomma diciamo abbastanza usuale ogni totto, oppure c'è proprio è legato al fatto che in bilico la maggioranza? Non è usuale, quando lui l'ha chiamato per dirgli guarda c'è questa situazione, probabilmente si va a crisi. Cioè il Presidente del Consiglio chiama il Presidente della Repubblica in questi casi per dire c'è forse la possibilità di una crisi. Chi avrà detto chi Mattarella, aperto, secondo te, che cosa avranno dedotto, cosa avranno concluso? Ma sai, con l'Italia, noi abbiamo l'Italia ultimo fanalino di coda in Europa, seconda, per crescita, dati, eccetera. Sì. Cioè, voglio dire, è chiaro che Mattarella ha detto, cercate di non farla, il governo è appena nato, cioè noi qui a settembre è nato il governo, cioè è una follia. Allora, non si capisce, allora la Carfagna e quindi Forza Italia, perché oramai un pochino, no, la leadership di Berlusconi è finta, lo sappiamo tutti, la Carfagna cerca di barcamerarsi, eccetera. Vedo poco fa ha detto, insomma, noi poi, mai disposti a sostenere il governo, appunto, perché qualcuno pensa, no, ci può essere qualche irresponsabile, appunto, tra virgolette. Allora, a questo punto si va a crisi, cioè se Renzi decide di andare a crisi per questa cosa, che io riconosco che nel merito lui possa anche avere ragione, ma il problema è che se lui va a crisi e lui ha deciso lui di sostenere questo governo con i 5 Stelle, quindi sapeva benissimo come erano i 5 Stelle, è una follia. Ma ci sarà crisi per forza o magari un rimpasto? O magari vuol semplicemente sostituire no, Conte? No, lui vuole un rimpasto. Lui vuole un rimpasto per depotenziare i 5 Stelle. Ma non puoi andare contro il ministro della giustizia che in questo momento è il referente 5 Stelle. E che finché non si vota, lo ricorda ai radioascoltatori, i sondaggi possono anche dare il Movimento 5 Stelle allo 0,2%, non è così ovviamente, stiamo facendo un'assurdità, no? In Parlamento a tutt'oggi il Movimento 5 Stelle ha il 32%, per cui Renzi si deve mettere l'anima in pace, non puoi attaccare il referente del governo all'interno di Palazzo Chigi, che è in questo momento il ministro Alfonso Bonafede, dopo che Luigi Di Maio ha fatto un passo indietro. Tu stai attaccando la maggiore forza della maggioranza. Io ti parlo di numeri, di seggi, di voti, sì, quando sì, si vota una legge. Ding, ding, ci sono i senatori e ci sono i deputati. Chiarissimo, ding, okay, ding. Senti, tu, Zingaretti ha detto... E quindi, dove cavolo vai, Matteo Renzi? Dove vai, Matteuccio? Vuoi andare alle elezioni? Vai. Senti, facci un favore, Betta, quando... Che visto probabilmente che lì, non ritornerai in Parlamento. Ma ecco, siccome sei sempre lì, tra i palazzi romani, nelle stanze segrete, eccetera, eccetera, quando te lo trovi davanti, chiedilo e ci porti la risposta, va bene? Ci lasciamo qui, diciamo, con questa indicazione, con questo impegno, incarico che ti do. La crisi che non c'è, o forse c'è, sai che è tipo una canzone di Sanremo. Sì, cantacela. Crisi sì, crisi no, non lo so, ti amo, non lo so, però tu mi hai tradito. L'amore a domani, Giuseppe, che è San Valentino. Tu è tutta una cosa un po' così, capito? Una canzone esistenziale. Betta, è chiarissimo. L'amore a domani, che è San Valentino, buon amore anche a te. Grazie Betta Fiorito e a tutta la politica, naturalmente. E a tutti voi, ci fermiamo per una piccola pausa di riflessione e poi di nuovo insieme Rata con la Folgore torno, perché dobbiamo parlare degli sviluppi legati al coronavirus. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto notte, siete al posto giusto nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano e... Probabilmente siete al posto giusto, così che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché qui ogni sera ve le racconto in una sintesi iniziale, poi approfondendo alcuni temi in particolare, alcuni fatti del giorno con gli ospiti. Abbiamo parlato ampiamente di politica, di questa aria di crisi, sicuramente un clima teso all'interno della maggioranza di governo. Adesso invece ci occupiamo di altre questioni sempre molto importanti. Questo è il momento dell'immancabile, doveroso aggiornamento che vi faccio quotidianamente sull'epidemia da coronavirus. Sappiamo che ormai si chiama Covid-19, abituiamoci un po', lo chiamiamo ancora nei due modi, poi sarà il Covid-19 come ha deciso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, in questi giorni naturalmente si sta parlando anche dell'impatto economico. Ieri la notizia a riguardo era che il virus frena il PIL, prodotto interno lordo mondiale. Oggi, dopo la diffusione delle previsioni della Commissione europea, il Ministero dell'Economia, il Ministero italiano, ha detto che col coronavirus si introduce un fattore di rischio per la crescita globale che impatterà ancora sull'economia italiana per almeno 2-3 mesi, ma i cui effetti, ha detto il Ministero, non possono ancora essere quantificati. Dal punto di vista medico invece, il bilancio ieri parlava di 1.115 decessi, al 97% circa in Cina, con pochi casi fuori dalla Cina, e 45.183 casi accertati. E quella che ieri era parsa come una buona notizia, cioè che da giorni i nuovi casi confermati di coronavirus hanno continuato a scendere. Alcuni scienziati hanno iniziato a ipotizzare con molta cautela, ieri c'era anche questo ricercatore di Boston, Vespignani, che ha parlato di un avvicinamento al picco dell'epidemia, no? Ieri abbiamo avuto ospite effetto notte. Tuttavia i dati diffusi questa mattina dalle autorità cinesi sembrerebbero invece andare in una direzione opposta, cioè si è detto dalle autorità cinesi che i nuovi casi confermati dalle autorità, in particolare di Hubei, che è la regione cinese centro dell'epidemia, sono improvvisamente schizzati a 14.840 rispetto ai 1.600 del giorno precedente, portando il totale a quasi 50.000 casi, mentre i decessi sono più che raddoppiati in un solo giorno, da 94 a 242, portando il totale a 1.310. Alla base di questa impennata ci sarebbe, secondo la spiegazione delle autorità stesse cinesi, un cambiamento dei criteri di valutazione dei malati, cioè fino a ieri si contavano solo quelli con che erano risultati positivi al test diagnostico per il coronavirus, mentre adesso si calcolano anche coloro che con una lastra in ospedale risultano comunque affetti da forme di polmonite. In giornata però l'OMS ha detto non c'è stato nessun grande cambiamento nella diffusione dell'epidemia, ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, assicurando che l'aumento dei casi di coronavirus in Cina è solo dovuto a questo cambiamento, ma non significa che la crisi si sia aggravata. Ma noi, che abbiamo scienziati e scienziate tra i migliori al mondo, lo vogliamo chiedere a chi, scienziato d'eccellenza in un centro d'eccellenza, ha tra l'altro in questo periodo sulle spalle un bel peso, una bella responsabilità, ed è il professore Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Professore, buonasera. Buonasera. Grazie della disponibilità, perché so che è presissimo, lei è occupatissimo in questi giorni. Ma lei ha fatto una lettura la più precisa che si potesse fare. A un certo punto nella provincia di Hubei si sono resi conto di avere una quantità tale di casi, di polmoniti, e loro non avevano la possibilità di fare il test a tutti. Questa è una situazione che si andrà risolvendo nelle prossime settimane con un largo accesso ai test. A questo punto era necessario capire quante potevano essere le persone. Questo serve anche per stimare quel benedetto picco, perché nel momento in cui saremo nel picco avremo capito quante generazioni avrà fatto il virus e se passando da una generazione all'altra si attenua. Questi sono è il motivo per cui, come l'OMS ha detto stasera, perché nel situation report che viene fatto tutte le sere alle 6, adesso noi ci troviamo oltre 46.000 casi confermati, circa 47.000 casi confermati. I casi diagnosticati avevano una evidenza clinica con una TAC, ovvero sì, avevano una polmonite, avevano un link epidemiologico con la zona e avevano una TAC positiva. Quindi la TAC improvvisamente è diventato uno strumento diagnostico per cercare di capire qual è il rischio di diffusione in quelle zone, stimare meglio, perché la cosa positiva è che il numero di trasmissioni secondarie, tra l'altro cambiare nome al virus è stato mettere un nuovo nome alla malattia in pochi giorni ha creato anche qualche confusione, sì, per chi sente. Cioè adesso la malattia si chiama Covid-19, il virus si chiama SARS-CoV-2, sì. Quindi la gente non capirà bene di che cosa parliamo. Però non l'acronimo che era stato trovato per solo una settimana fa per il virus, poi è sembrato che fosse più simile alla SARS, quindi per modalità di presentazione, e il nome è stato nuovamente riportato in questo SARS-CoV-2. Cosa che per gli addetti ai lavori non cambia assolutamente nulla. Avere una malattia che si chiama malattia infettiva da coronavirus 19, perché è relativo all'anno, può creare qualche confusione. In ogni caso ci sono alcune buone notizie. La prima buona notizia è che sostanzialmente la quota di casi confermati fuori dagli altri paesi, e sostanzialmente noi abbiamo casi possibili fuori dalla Cina, abbiamo stasera 3 casi a Singapore, un caso in Vietnam e poi ci fermiamo a questo bollettino. Questo è sicuramente una delle speranze migliori che i casi fuori dalla Cina rimangano estremamente confinati. Non avere più. Stiamo parlando di decessi, professore? Sta parlando di decessi in questo momento? No, di casi con trasmissione fuori dalla Cina. Non avere casi di trasmissione fuori dalla Cina, questo ci fa ben sperare, e soprattutto noi non abbiamo al di fuori della Cina, per la quale i morti vengono calcolati, in questo aggiornamento di stasera non abbiamo nessun morto fuori dalla Cina. Quindi il bicchiere dobbiamo vederlo mezzo pieno in questa situazione, e tutto questo sforzo che si sta facendo per cercare di aiutare ad avere un quadro dell'epidemia e a definire le modalità di trasmissione sicuramente sarà utile. Professore, tra l'altro lei ha firmato con un gruppo internazionale di scienziati un editoriale pubblicato dall'Lancet Respiratory Medicine dicendo che il tasso di mortalità in ospedale rimane al 2%, non ci sono evidenze che si diffonda il coronavirus più rapidamente dell'influenza, quella che ho anch'io in questo momento, giusto? E quindi dice è giusto abbassare il clamore e l'isteria anche nell'informazione, anche sui social? Guardi, quello che abbiamo cercato di spiegare e di commentare è che noi abbiamo un'esigenza. La prima esigenza è di cercare di far lavorare chi lavora. Molte persone che parlano anche nei media non sanno di che cosa parlano, forse hanno letto i giornali e il giorno dopo lo vanno a raccontare senza avere nessuna competenza, senza sapere, e talora anche con un po' di malafede. Quindi ritengo che le persone che lavorano non hanno tempo da perdere a raccontare fesserie. Invece giornalmente abbiamo persone che raccontano cose più delle volte senza avere fondamento scientifico. Professore, quindi ci dica le tre cose, che certezze che abbiamo sul coronavirus, le cose che vorrebbe che anche a livello di informazione. Di questo virus oramai sappiamo tutto. Le sequenze sono state rese disponibili, anche l'Italia ha deciso di depositare le proprie sequenze in GenBank già. Quelle da che avete trovato giorno. Allo Spallanzani, sì. Sì, ma abbiamo depositato anche sequenze genomiche complete, non solo quei pezzetti che abbiamo depositato nei primi giorni, abbiamo depositato sequenze complete tra l'altro qualcuno, usando i pezzetti di sequenze, ha tratto anche conclusioni riportate sui media che erano difficilmente condivisibili. Però questo fa parte, in una situazione di emergenza dove tutti vogliono parlare e dove anche i giornali scientifici si trovano spesso ad essere, per correre dietro alla notizia, a fare spesso marcia indietro. Vorrei dire che a questo proposito una rivista prestigiosa come New England l'altro ieri mattina è stata costretta a fare un appendix sul famoso caso asintomatico tedesco per spiegare esattamente che i dati erano stati raccolti in maniera superficiale e in realtà un po' di sintomi c'erano. Professore, quindi abbiamo ancora proprio soltanto un minuto, ci dica in Italia come siamo. Allora, Spallanzani, sappiamo che sono stati dimessi 20 cinesi, che c'è ancora un ricercatore italiano 29enne che comunque sta piuttosto bene, la coppia di turisti cinesi mi sembra che sia ancora stazionaria in terapia intensiva. Cos'altro dobbiamo dire dell'Italia, professore? E poi l'Italia sta facendo un grandissimo sforzo, come dimostrato anche dalla presenza del ministro alla riunione dei ministri della sanità Speranza, europei, sì. E questo sforzo è pienamente riconosciuto, perché non un solo pezzo ma tante diverse attività possono arrivare ad aiutarci a contenere l'epidemia. Grazie professor Giuseppe Ippolito. Buonasera. Se lo dice lei ci fidiamo ciecamente. Ricordo, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Viabilità. Questo è il City SUV Volkswagen T-Cross, ma non è solo T-Cross, è T-Cross e anche T-Cross o T-Cross, ma anche T-Cross e poi T-Cross e T-Cross e T-Cross. Perché scegliere un'auto se puoi averne tante? T-Cross, more than one thing. Solo a febbraio, tua con Tech Pack di serie da 17.900 euro, anche domenica e su Volkswagen.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con le notizie più importanti, sempre Roberta Giordano con voi. Parliamo della novità finalmente positiva che riguarda il ponte di Genova. Oggi è stata issata la prima maxi trave del nuovo viadotto sul Polcevera, il primo varo in cantiere di una delle tre maxi travi previste da 100 metri, come ci racconta anche il nostro Andrea Ferro da Genova. Ciao Andrea. Ciao Roberta, buonasera agli ascoltatori. Sì, è un momento significativo nel cammino che condurrà definitivamente al nuovo ponte sul Polcevera. Come dicevi, le travi da 100 metri chiaramente sono più pesanti e più impegnativo issarle, portarle in quota, per usare un gergo specifico, vararle, proprio come si dice per una nave. D'altronde questo ponte, come ha sottolineato anche oggi il sindaco, assomiglia veramente a una nave, ora che ne vediamo una parte consistente, praticamente su metà del ponte, 500 metri su 1100 scarsi circa, un bel ponte. Chiaramente noi genovesi, tutte le volte che passiamo vicino alla zona della Val Polcevera, volgiamo lo sguardo verso il ponte in costruzione, e ora vediamo, Roberta, veramente un pezzo di ponte che dà speranza e che inevitabilmente indica che la costruzione va avanti e che sarà rispettato, almeno così pare ormai quasi scontato, anche se è il caso di fare gli scongiuri, il termine che è stato un po' posticipato rispetto al cronoprogramma iniziale, Andrea. Termine che è fissato a questo punto al 21 giugno, quando è una data che circola, diciamo, nell'ambito delle indiscrezioni, non è ancora una data ufficiale, ma quel giorno, chissà, forse veramente potremo vedere le auto di nuovo, cioè, tra circolare 4 mesi, sopra, Andrea, il Polcevera. Tra 4 mesi già, sì, potrebbe esserci il ponte completato. Allora, il cronoprogramma prevede questa tappa intermedia, la conclusione del ponte, cioè vedremo interamente il ponte entro il 20 marzo, poi ci vorranno 3 mesi circa per gli allestimenti e chiaramente anche per i collaudi. Quindi la data del 21 giugno, ripeto, non è ufficiale, però si mormora, diciamo così, nei corridoi dei quartieri generali, che questa potrebbe essere veramente la data, oltretutto una data anche simbolica, perché è primo l'inizio dell'estate. Certo. La trave che ha preso forma, diciamo, in quota è la nona su 19, mentre per quanto riguarda le pile ne manca solo una e tutte 18 sono pronte. Insomma, le cose vanno avanti. Beh, e per Genova chiaramente è molto molto importante. Credo di aver usurito il mio tempo, sì. Un saluto e riprenditi dall'influenza, da Genova è tutto, ciao. Grazie mille Andrea Ferro, un abbraccio a te e a Genova naturalmente. Ora invece ci rivolgiamo siamo a Milano, allo stadio di San Siro, dove c'è in diretta il nostro Dario Ricci, che sta seguendo la partita semifinale di Coppa Italia maschile Milan-Juventus. Come procede, Dario? 49esimo di gioco a San Siro, 0-0. In questo istante un cross al centro che Ibrahimovic riesce ad agganciare ma non a controllare perfettamente, e bloccato quindi da Buffon che ancora un paio di minuti fa è stato di nuovo decisivo sulla conclusione di sinistro di Rebic, diagonale dall'altezza del distretto del rigore. Ancora pronto il numero 77 della Juventus a respingere la conclusione del milanista, un Milan che, come già abbiamo detto nel precedente collegamento, è stato più pericoloso nel primo tempo, ancora una volta con Rebic al quarto minuto, al 22esimo, soprattutto con un destro di Calabria, sempre pronto Buffon, un'occasione anche per la Juventus, un diagonale di Cuadrado al 36esimo, la respinta di Donnarumma in quell'occasione. Da segnalare, e chiudo, l'ammonizione tra le fila dei rossoneri di Hernandez e di Ibrahimovic, entrambi diffidati, salteranno la gara di ritorno del 4 marzo a Torino, e finora tutto sommato anonima la prova sia di Ibra che di CR7 Cristiano Ronaldo. 45esimo di gioco in questo istante, 0-0 a San Siro tra Milan e Juve. Grazie Dario Ricci, quindi la partita per il momento prosegue così. Ringrazio chi sta mandando gli auguri per la giornata mondiale della radio, eccetera eccetera, grazie, siamo molto orgogliosi di questo. Chi mi dà consigli per l'influenza, vi assicuro, ecco, quando si parlava prima del coronavirus non abbiamo detto, perché vorrei anche evitarlo, che ci sono continuamente questi atteggiamenti veramente spregevoli nei confronti dei cittadini cinesi. Non è perché uno ha gli occhi a mandorla, è cinese per forza, anzi vi assicuro che sono in questo momento molto molto più contagiosa di chiunque. Ci sentiamo tra poco.